Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Stando ai più recenti dati Istat, oggi sono più di 3 milioni gli italiani che non riescono a trovare un lavoro e l'esercito dei disoccupati che raggiunge i 7 milioni se vi si aggiungono coloro che, pur essendo disposti a lavorare, hanno smesso di cercare un impiego, i cosiddetti scoraggiati. Conseguenza della grave crisi che si è abbattuta sul nostro paese dal 2008 in poi, ma che affonda le sue radici nei decenni precedenti, cifre che ci riportano al dramma dei senza lavoro che seguì alla grande crisi degli anni 30 del Novecento, fenomeno preoccupante dal punto di vista economico e sociale che va indagato anche dal punto di vista storico. Lo facciamo oggi in compagnia di Manfredi Alberti, che collabora alla Cattedra di Storia Economica presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università Roma III, autore di un libro appena pubblicato da La Terza, dal titolo Senza lavoro, la disoccupazione in Italia, dall'unità a oggi. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Da oggetto sfocato e quasi indefinibile, la disoccupazione divenne una categoria riconosciuta solo tra 8 e 900, quando al consolidamento del movimento operaio fece seguito un primo limitato tentativo di arginare il problema in chiave riformistica. Con la Prima Guerra Mondiale si intravide all'orizzonte per la prima volta la possibilità della piena occupazione, che si sarebbe tuttavia rivelata un obiettivo irraggiungibile in tempo di pace. In seguito, il corporativismo fascista, al di là degli annunci, non si mostrò capace di soluzioni incisive nel contrasto alla disoccupazione. Si dovette giungere alla nascita della Repubblica e all'approvazione della sua Carta Costituzionale per vedere riconosciuti il diritto al lavoro e al pieno impiego come orizzonti della politica economica. Nei fatti, tuttavia, l'obiettivo di un'occupazione piena e soddisfacente non si sarebbe raggiunto neanche nei momenti più propizi del periodo repubblicano, come all'inizio degli anni 60. Ecco, Manfredi Alberti, partiamo proprio dagli anni 60, gli anni del cosiddetto boom economico, dei tassi di crescita pari a oltre il 6% l'anno, mai più registrati nella storia repubblicana. Perché una crescita così impetuosa non riuscì a garantire la piena occupazione? Quanto hanno pesato e continuano a pesare gli enormi squilibri tra nord e sud del paese? Beh, in effetti, durante gli anni 50, a boom già avviato, esisteva ancora una vasta riserva di manodopera inutilizzata e quindi, nonostante la crescita impetuosa, soprattutto al sud rimanevano ampie sacche di popolazione senza lavoro. E non è un caso quindi che ancora nel 57, ad esempio, a Danilo Dolci organizzò a Palermo un convegno dedicato alla piena occupazione. E d'altra parte nel 59 esistevano, seconda l'Istat, ancora 1,5 milioni di disoccupati. Questo probabilmente derivava anche dal ritardo con cui in Italia si era giunti a una politica rivolta alla piena occupazione. Quindi bisogna aspettare l'avvio della programmazione economica con gli anni 60 per vedere dei risultati un po' più concreti. E sicuramente la situazione del sud appesantiva il dato nazionale e quindi la situazione di quasi piena occupazione, di piena occupazione del nord, in particolare del triangolo industriale, non era paragonabile a quella del sud, dove non a caso, da dove partirono, non a caso, moltissimi lavoratori diretti nelle zone del triangolo industriale e nel resto d'Europa a cercare lavoro. Infatti, a questo proposito, facciamo un passo indietro all'inizio degli anni 50. Un film che lei stesso cita nel libro, Il cammino della speranza di Pietro Germi, del 1950, narra la storia dei minatori siciliani che nel dopoguerra tentano di raggiungere clandestinamente la Francia. Quello che vi interessa sentire a voi è solo questo. Volete lavorare e non dovete rispondere che sì o no. Non ve lo immaginate nemmeno come si vive là, è un altro vivere, è un vivere da gente civile. Le donne mica siete obbligate a tenerveli in casa, perché vanno a lavorare anche le donne e i ragazzini. Lavori facili nelle usine, che poi sarebbero le fabbriche. Incartare caramelle, piegare le scatole di cartone, lavori facili e pagati bene. Hanno bisogno di manodopera in Francia. Una famiglia, mettiamo, di 4 persone, 2 grandi e 2 bambini, i suoi 3.500 franchi al giorno, che sarebbero quasi 5.000 lire delle nostre, li mette insieme come niente. Vi rendete conto? Va bene, ma come ci si va in Francia? Qui ci porto io. Ma quanto costa? 20.000 persone. Anticipate. Il film ci porta quindi diritti dentro un fenomeno che ha coinvolto migliaia di italiani in quegli anni, la speranza di un lavoro all'estero come condizione indispensabile per costruire un futuro migliore. Italiano, quindi italiani popolo di emigranti? In una certa misura sì. Potremmo dire forse che quasi tutti i paesi europei, o almeno una parte dei paesi europei, a seconda dei periodi storici, sono stati paesi di emigrazione. Bisogna, a proposito di questo tema, ricordare, precisare che l'emigrazione, come pure le migrazioni interne, quindi gli spostamenti interni al territorio nazionale, hanno sempre coinvolto una minoranza di lavoratori, una minoranza che è stata più o meno larga a seconda dei periodi. E dall'altro bisogna anche precisare che la figura dell'emigrante non coincide necessariamente con quella del disoccupato, perché si può emigrare pur senza partire da una condizione di totale assenza di lavoro e si può essere disoccupati senza scegliere necessariamente di emigrare. E nel periodo che fa da sfondo al film di Germi, l'emigrazione venne vista dai governanti con favore, come valvola di sfogo rispetto alla disoccupazione, e questo nuovo atteggiamento contrastava con la politica del regime fascista, che invece aveva ostacolato con diversi mezzi il deflusso di popolazione. Certo, infatti l'emigrazione, lei scrive nel suo libro, divenne particolarmente elevata anche nel corso del decennio giolittiano, quindi andiamo indietro agli inizi degli anni 10 dello scorso secolo, e ancora una volta, appunto, andando indietro nel tempo, una fase di espansione economica non accompagnata dalla piena occupazione. Sì, questo è vero. Il binomio fra crescita economica e aumento dell'emigrazione in effetti può apparire paradossale, ma se si guarda più da vicino questi fenomeni può appunto apparire meno paradossale, perché la presenza di immigrazione, pure in una fase di espansione, dipendeva in quel caso dalla presenza di ampi margini di disoccupazione che venivano dai decenni precedenti, e dall'altro dal fatto che la scelta di emigrare, quindi poi l'ammontare del la grandezza dei flussi dipendeva e dipende quasi sempre anche dalle aspettative e dalle scelte individuali che vengono poste in essere dai lavoratori, nonché da fattori internazionali come la domanda di lavoro nei paesi stranieri o lo sviluppo tecnologico dei mezzi di trasporto. Il periodo giolittiano è senz'altro una fase in cui la navigazione transoceanica divenne accessibile per quote sempre più ampie di popolazione. Beh, scorrendo i dati che lei riporta con molta precisione nel suo libro, una ricostruzione storica che parte dai primi anni dell'Unità d'Italia, si ha appunto la conferma che la disoccupazione nel nostro paese è un fenomeno endemico, potremmo dire strutturale in qualche modo. In certa misura sì, ma potremmo dire in più in generale che la disoccupazione è un fenomeno che caratterizza tutti i paesi che hanno una forma di produzione capitalistica. Quindi in Italia esisteva però sin dall'Unità d'Italia una cronica eccedenza di popolazione che fece partire, diciamo così, la storia della disoccupazione già con un appesantimento legato agli aspetti demografici. E più in generale la disoccupazione si lega al problema dell'innovazione tecnologica, che se non accompagnata da una quota crescente di investimenti può generare appunto disoccupazione tecnologica, e quindi anche i recenti sviluppi dell'informatica non necessariamente sono garanzia di crescita accompagnata da piena occupazione. Questo è un punto fondamentale, perché si aveva avuto l'impressione, o anche la speranza se vogliamo, che l'avvento delle nuove tecnologie, sostituendo nuovi lavori ai vecchi e della telematica in particolare, potesse far fronte al dramma della disoccupazione. In realtà poi abbiamo assistito a un fenomeno di sostituzione, ma non forse di creazione di nuovi posti di lavoro. È una tendenza che le sembra inarrestabile, come si può far fronte, secondo lei, a questo fenomeno? Torno a dire, l'innovazione tecnologica di per sé non garantisce né che vi sia un assorbimento della disoccupazione o un'espansione dell'occupazione, né tantomeno si traduce necessariamente in disoccupazione tecnologica, perché la variabile decisiva, a mio avviso, rimane quella della domanda, e quindi degli investimenti che le imprese o il settore pubblico pongono in essere per espandere il reddito nazionale. Ed è una sfida, naturalmente, che riguarda il nostro paese, in particolare in questo periodo di lenta e faticosa uscita dalla crisi. Bene, dottor Alberti, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi e le auguriamo buona serata. Grazie a voi.